Letture di Radio 24. I vincitori delle amministrative parlano di svolta epocale, ma se vuole evitare la sconfitta alle prossime elezioni, Pisapia dovrebbe mettere da parte la sua demagogia e le sue facili promesse. E Niki Vendola, prima di ringraziare i fratelli musulmani, dovrebbe ricordarsi come vengono trattati gli omosessuali nei paesi islamici. È una svolta epocale che cambierà il volto dell'Italia, dicono i vincitori, e fa eco il giornalismo impegnato. Definizione legittima, ma, diciamo, un tantino enfatica. Restiamo perciò con i piedi per terra. È la democrazia, bellezza, direbbe Humphrey Bogart. Alle volte vince la destra, altre la sinistra. È anche la mia opinione. Per sapere come sarà il budino, aspetto di assaggiarlo. Ma al mio interlocutore di una trasmissione radio non basta. Con la fine del berlusconismo, dice, è la fine dell'era del consumismo, dei manager strapagati e delle pensioni di 500 euro. Cercò di spiegare che ciò che lui chiama consumismo è in realtà la società dei consumi, che non è un'invenzione del cavaliere, ma un indotto della modernità, della democrazia liberale e del capitalismo. Lo sterminato numero di prodotti allineati sugli scaffali dei supermercati sono la prova della libertà di scelta del consumatore, ma anche la metafora di quella politica del cittadino. Le retribuzioni dei manager sono l'esito di un contratto liberamente stipulato fra l'azionista, che paga, e il manager, che presta la sua opera in un regime di mercato. Fra gli alti stipendi di certi manager e le misere pensioni di certi pensionati non c'è alcun nesso di causa ed effetto. Camminano su binari paralleli e indipendenti e il loro rapporto non è a somma zero. Ma, replica il collega, in nome della sua idea di liberalismo, è perfettamente inutile che ci siano tanti prodotti sugli scaffali dei supermercati se poi i poveri non li possono comprare. A questo punto, invitarlo a leggersi almeno il Marx del Manifesto 1848, chiamare il 118 per farlo ricoverare d'urgenza in manicomio, mi chiedo quali supermercati egli frequenti mai, perché un fatto a me pare empiricamente certo, quelli dove faccio la spesa io non sono affollati da miliardari, bensì per lo più da gente non particolarmente abbiente, né i poveri sostano all'esterno mendicando un tozzo di pane. Caro Pisapia, se non vuole già da adesso creare le condizioni della sconfitta della sua parte politica alle prossime elezioni, non carichi di aspettative palingenetiche la sua elezione a sindaco di Milano. Amministri la città come ritiene e noi la giudicheremo per quello che farà. E lei, caro Vendola, non ringrazi i fratelli musulmani per la vittoria elettorale. Nei paesi islamici, gli omosessuali, così come i cristiani, sono perseguitati e uccisi. Quelli non sono propriamente il luogo dove lei potrebbe vivere serenamente la sua vita. Alcuni di noi potrebbero andare liberamente a pregare il proprio Dio in chiesa, in sinagoga, in moschea e milioni di uomini qualunque votare come credono. Nella pur sempre perfettibile democrazia liberale si vota non per produrre svolte epocali, bensì, di volta in volta, per vedere che tempo che fa. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Piero Ostellino, Un consiglio al neosindaco, una polemica con il suo leader, dal Corriere della Sera del